Parliamo dell'Hotel Africa, che sarebbe un'occupazione che si trova vicino alla stazione Tiburtina, in cui ci sono praticamente in 3 immobili abbandonati all'interno di un cantiere che trasformerà il volto della stazione. Ci sono 400 rifugiati politici o richiedenti asilo, di provenienza soprattutto africana, che da più di un anno vivono in condizioni assolutamente indegne per una città moderna. Tra l'altro una città in cui il sindaco si vanta una politica di solidarietà e di accoglienza molto importante. E praticamente abbiamo conosciuto questa vicenda attraverso l'incontro con Medici Senza Frontiere, che è l'unica organizzazione umanitaria presente nell'occupazione, che già ci ha descritto una situazione surreale. Praticamente il comune di Roma e le ferrovie, che tra l'altro le ferrovie sono le proprietarie dell'immobile, non hanno garantito nell'ultimo anno nessun intervento emergenziale degno di questo nome. Gli unici interventi umanitari sono stati fatti grazie all'intervento della Protezione Civile e di Amnesty International e di altre associazioni. La situazione è che in questi immobili, che appunto vivono circa 400 persone, e manca la luce, l'acqua, i bagni, ci sono soltanto 5 bagni in un prefabbricato per circa 300 persone da una parte, mentre l'altra palazzina non ha nemmeno i bagni. Le immondizie sono state raccolte soltanto una volta e adesso ci sono quintali di spazzatura, insomma, buttati intorno all'area, con anche gravi rischi, insomma, di infezione e di malattie. E intorno a questa vicenda si è creata una rete sociale che racchiude le associazioni locali, e centri sociali e altre organizzazioni di volontariato che hanno sollevato la questione sia con un'occupazione durante la conferenza stampa della scorsa settimana che chiudeva il ciclo di iscrizione per gli immigrati, per la possibilità del voto per il consigliere aggiunto. E abbiamo ottenuto un incontro con il consigliere DS Bartolucci, che è il presidente della commissione appunto che si occupa della questione del voto per i migranti. E tramite questa interlocuzione siamo riusciti ad aprire, insomma, uno spazio e forse qualcosa si sta muovendo. E un addetto dello staff dell'assessore alle politiche sociali Milano ci ha garantito che il gabinetto, proprio negli ultimi giorni, ci ha garantito un primo intervento umanitario, diciamo. Sarà avviato una prima bonifica dell'area attraverso l'intervento dell'AMA e avviando contemporaneamente un tavolo tra comune, ente ferrovie, proprietaria dell'immobile e le reti sociali si sono mosse per affrontare il tema più generale della destinazione e della sistemazione per l'alloggio di queste 400 persone, sapendo che i tempi di questa emergenza sono dettati dal previsto sgombero per fine marzo. E diciamo che questi ultimi passaggi saranno valutati in prossime riunioni cittadine di questa rete sociale. E per capire quali mobilitazioni avviare in modo di verificare concretamente i passi che l'amministrazione sta dicendo di voler fare. Capiremo se le reali intenzioni del Comune sono quelle dette o seppure bisogna aprire un'altra vertenza anche nei confronti delle ferrovie, che per adesso sembrano la parte, diciamo, ancora più rigida, che non vuole aprire nessuna trattativa rispetto alla destinazione d'uso di questo immobile, che potrebbe invece essere proprio un primo passo per una riqualificazione di quell'area e a destinazione d'uso proprio della richiesta alloggiativa.